fatta, fatta. Buonasera, l'ordine del giorno sarà la pettofilia, vista come una calamità della tua età odierna. Sentiamo José Mourinho, allenatore, cosa ne pensa al riguardo? No, è problema mio. Io penso Real Madrid squadra più forte del mondo. Mi ricordo mia nonna diceva sempre da piccolo a me: Se gente tu stai antipatico vuol dire che è invidiosa. Quindi per me stare antipatico è un vanto. Sentiamo adesso Timoncelli, campione di MotoGP, cosa ne pensa? E oggi la gara è andata un po' come è andata, insomma, sì, il pacchetto Gomez non ha funzionato come al solito. Poi c'è Barbera che comunque è dall'inizio della gara che tenta di buttare giù tutti. Per fargli un complimento gli posso dire che è un imbecille. Non lo so, però oggi sono onorato di stare qui, anche se l'Angilera non ha vinto. Però penso che il passaggio alla MotoGP sia un passaggio fondamentale della mia carriera. Poi gareggiare con Valentino è sempre una bella esperienza. Bene, sentiamo adesso Tata Ibrahimovic, cosa ne pensa? Io penso gente parla troppo. Se loro parlano di me vuol dire che io è importante per loro, molto importante, loro no, importante per me. Sentiamo adesso cosa ne pensa un grande telecronista, Bruno Pettol. Un applauso. Inzaghi, e gol. L'Italia in vantaggio. Bruno, buono. Annullato per fuorigioco. Però mi sento di dire che ce la portiamo a casa lo stesso. Buono. La Francia è campione d'Europa.